Per strada ho incontrato un bandito, mi disse tra poco ho finito, ho sempre sparato con fuoco a ventaglio, del cuore di troppi ho fatto bersaglio. Mi disse, puoi ridermi in faccia, la vita che vivo la pago in sudore e a casa mia moglie mi nega. Ho molto peccato, ma Dio lo giuro, non l'ho mai scordato.